vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Hammer Smithonian, are you ready for the Def Jam Tour? Let me hear you make some noise! In concert for BBC Television tonight and a fresh start to the week. Let me hear you make some noise for Public Enemy! Siamo di nuovo a This Is Not An Exit e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Questo sabato, come al solito, trattiamo di qualcosa che affonda le radici nel tempo tra l'88 e il 93. In questo caso siamo proprio nel 1988. E beh, intanto benvenuto Reda. Benvenuto, vabbè, grazie dell'invito. Ma di niente, questa sera parliamo di, come avete forse capito ascoltando l'intro di questa puntata, di Public Enemy. Yeah. Public Enemy, che sono stati molto di recente qui a Bologna, io non li avevo mai visti, e dal vivo hanno un gran bel tiro che pochi altri gruppi hanno. Per me sono praticamente l'equivalente di un gruppo rock, che dire. Sono in giro da 25-30 anni ormai. Sì, è un gruppo rock nel senso che comunque si portano guitar, bass, batteria sul palco, oltre al DJ. Oltre al DJ, esatto, che non è più il vecchio Terminator X che era in questo 1988, ma comunque è tuttora un signor DJ. DJ Lord. Ma esatto. Torniamo a Reda, perché ho chiamato Reda questa sera? Cosa hai combinato con Public Enemy? Beh, Public Enemy li ho incrociati sulle mie strade gli ultimi anni, diciamo. Ho avuto un incontro facendo un programma a radio, appunto, un'intervista a Chuck D quando vince Obama l'elezione, fine 2008, andò a fare un'intervista perché mi sembrava una voce importante per l'America nera, per gli afroamericani, una voce di attivista che è rimasto coerente negli anni attraverso la sua arte, e così lo conobbe e nasce un progetto che è diventato un film che si chiama The Long Road to the Hall of Fame, dove fanno parte anche loro. Eh sì, perché terzo gruppo rap nella storia, anche i Public Enemy alla fine sono entrati nella Hall of Fame. Rock and Roll Hall of Fame. Nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi come gruppo rock. Anche per questo pezzo forse, che hanno rifatto con gli Anthrax, ma noi ve lo mettiamo in originale. Too black, too strong. Yo, Chuck, these dirty dribblers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Ha ha, yeah, boy. Bass, how low can you go? Death row, what a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public Enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Chuck, this ain't we are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're going to have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise. Me, my DJ is warm, he's ex, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making the music abusive. But you can't do it, you know. You call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC first, and the DJ could be a band. Stand on its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Watch is for Anthrax. Still it can rock bells. Ever forever. Universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Bring the noise. Yo, they should know by now that they can't stop this bummer. Bring the noise. Word up, man, they keep telling me to turn it down. But yo, play the flame ain't going out like that. So you stop being like a comatose. Stand my man, the beats the same where the bolt stones. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars. They'll never get accepted as. We got to plead the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise checks, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Griff. Beh sì, dicevamo Public Enemy, grande momento, e sicuramente per quanto mi riguarda, ma non solo, l'hip hop era negli anni 80 il fenomeno musicale per eccellenza, perché era quello più nuovo, quello che portava avanti più tematiche, più cose da dire e innovava parecchio. Anzi, soprattutto questo disco dei Public Enemy innova tantissimo, ha un titolo molto molto lungo, infatti me lo prendo in mano e ve lo leggo. It takes a nation of millions to hold us back. Beh, insomma, c'era anche un discreto background politico che, come Reda ci spiegherà, si vede, voi non potete vederlo ovviamente, ma cercandolo su internet vedrete la copertina, che sì, ma la è copertina particolare. Abbiamo Chuck D, il cantante, il frontman, e Flavor Flav dietro le sbarre. Dietro le sbarre, sì, con i minimal, però la foto è molto molto molto forte. Ovviamente sono dei messaggi sottili, tipo il berretto che porta dei Raiders, piuttosto che la giacca, che è in referenza alla squadra che era di Oakland e che era la patria del Black Panthers, diciamo. Una squadra proletaria con un retaggio molto politicizzato. Chi erano poi i Black Panthers? Black Panthers Party for Self Defense, partito organizzato che è partito per la difesa, diciamo era nel periodo del Civil Rights Movement degli afroamericani. All'epoca non si usava questo termine, si diceva i neri, i negri, basta. Però era un movimento per organizzarsi e fare dell'autodifesa, organizzare la comunità contro gli abusi della polizia in quegli anni, dove era in certi stati degli Stati Uniti era normale ammazzare i neri e fare linciaggi pubblici e insomma c'è tutta un'iconografia e poi tutti dei testi appunto, non so, Strange Fruit, reso famoso per Nina Simone, il testo si riferisce a questi episodi che erano veramente all'ordine del giorno, all'ordine in maniera ancora più flagrante. Sì. E questi giovani si sono organizzati in maniera per difendere il loro quartiere, per dare una chance alla comunità di costruirsi e di difendersi proprio con le armi, ma anche con le armi del sapere, riconquistare un'identità che è stata stuprata dalla schiavitù, ecco. Questo è un periodo però antecedente al nostro 88, si parla della fine degli anni 60, evidentemente qualcosa era passato anche attraverso le maglie degli 80s ed era arrivato fino ai Public Enemy. Court, you're looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the bay. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the cause some they never had this. Number one. Never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me, I'm the epitome, a public enemy, used, abused, without clues, I refuse to blow a fuse, they even had it on the news. Don't believe the hype, don't believe the hype, don't believe the hype. Yes, was the start of my last jam, so here it is again, another death jam, but since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The book of the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of Ritalin, so claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya, a rap burglar. False media, we don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some denied, defiant, I swing bolos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on a pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiending for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. Yeah, boy, part two, bum rush the show. Yo, Grip, get the green, black, and red in. Gold down, countdown, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will put the left in effect, and I still will rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this. Red, yo, black, don't and green. That hype. They got to be, you know what that I mean? Pack. You know what I'm saying? Yo, the mega's got see cattle jerk like a jerk and they out of work. Let me tell you a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Già, don't believe the hype, vuol dire non bevetevela, non credete a tutto l'hype che sarebbe l'esaltazione del momento, e siamo negli anni 80 che erano gli anni cardine dell'esaltazione, arricchitevi tutti, diceva Ronald Reagan, l'abbiamo detto un sacco di volte nelle nostre puntate di This is not an exit. Negli Stati Uniti e a New York soprattutto c'era la bolla di Wall Street che poi esplose, ma fu un'esplosione di poco conto, riprese subito, quindi l'hype era tanto, ma come diceva prima Reda, i Public Enemy erano persone avvertite dalla tradizione delle Black Panthers e non solo. Poi si parlava di altri personaggi nei loro testi, tale Farrakhan, chi era? Beh, le referenze a Louis Farrakhan, che è il leader della Nation of Islam, non è il fondatore, perché Nation of Islam è nata tipo negli anni 30 e che si è proposta di offrire era la religione, si definiva la religione dell'uomo nero, che ha una storia diversa di quella che è scritta dalla storia bianca, e che si riferiva ovviamente a miti nell'Africa e a questo profeta che doveva venire per l'uomo nero in America, e Elijah Muhammad fondò questa cosa. Malcolm X è una delle figure le più note al mondo, insieme a Muhammad Ali, pugile, ma Louis Farrakhan diventò il leader di questa comunità che almeno negli anni 70, cioè 50, 60, 70 e fino agli anni 80 era molto molto influente, e ancora lo è, ma diciamo magari quantitativamente un po' meno adesso, se ne parla meno. Farrakhan era qualcuno che è molto importante per la comunità nera in tutti gli Stati Uniti, era un discorso, era abbastanza radicale per non essere messo in valore nella tutta la letteratura sul Civil Rights Movement, eccetera, che ha messo avanti altre figure ovviamente più cristiane, tra virgolette, e qui si dice anche nel testo di questa cosa, questo modello dell'America bianca, del winner, eccetera, che si arriva a noi. Ci riferiamo a gente che vuole guidare la nostra comunità come questo Louis Farrakhan, ma subito vennero le accuse di antisemitismo, eccetera, che si dice che non sai neanche cosa dice questa persona, però le prime polemiche riguardo la radicalizzazione di questo discorso era anche legato alla storia dei Public Enemy, il loro testo, l'immaginario loro che si nutriva di questa presenza molto forte, abbastanza aggressiva nell'estetica, nella scenografia, in tutto, anche i videoclip, nei vestiti, si riferiva alla Nation of Islam, si riferiva a Black Panther, che non sono della gente pacifista, nel senso che tu devi essere violento quando la situazione è violenta, e visto che l'America, come dice, di quegli anni, ma ancora adesso ovviamente, veicola solo dei modelli che opprimano, con la sua cultura imperialista, ci sono dei nuclei, in questo caso a Public Enemy erano nell'avanguardia artistica, che ha portato questo messaggio di gente che deve organizzarsi, deve difendersi by any means necessary, come diceva Malcolm X. In questo caso hanno portato il rap al suo meglio, in quello che si poteva fare. Mi sa che al Public Enemy era una bomba planetaria proprio. Io che vengo da un background di rocker, metallaro, cioè ascoltavo quel, perché hanno questo suono, oltre a lyrics che si riferivano a personaggi che ancora adesso, Louis Farrakhan per esempio, è una cosa un po' che imbarazza l'America. Cioè, non è una cosa che... No? Non era facilmente sussumibile dall'establishment. Esatto, esatto. E lo è ancora, lo dico perché, come accennavamo all'inizio della puntata, il documentario The Long Road to the Hall of Fame, che poi ho iniziato con l'incontro con i Public Enemy qui, e poi sono andato, volevo vedere com'è la vita nella strada durante il tour, ma non solo, anche proprio cos'è la vita di quartiere quando non stai lavorando, la vita del quartiere. Sono stato in questi, sia tipo in Harlem o Brooklyn, sia in quartieri come Watts nel sud di Los Angeles, dove queste cose sono una realtà fino adesso. Ci sono una specie di politica di ghettoizzazione, di cui se tu non fai un certo percorso sono insomma ghetto, periferia, per cui certa gente, in questo caso i Public Enemy o anche la Nation of Islam, che sono un ruolo dove la polizia non c'è, allora c'è un'anarchia tra i gang. Qualcuno deve pure diciamo fare questo lavoro sporco, perché comunque loro sono un gruppo che, come tutti sanno, praticamente hanno avuto molto coerenza nel percorso, e poi sono un gruppo che è molto ascetico su certe cose. Questo lato, diciamo, spirituale e religioso anche le rende molto attenti al appunto. È stata sempre una critica contro la droga, che vuole schiavizzare l'uomo nero, e il modello di questo success, di questo American Dream, che loro scriverebbero con 3K al posto di un C, perché Ku Klux Klan era una realtà. Adesso è un po' più sottile il discorso, si parla delle corporazioni, cioè nelle industrie dell'entertainment. Anzi, Chuck D lo chiama Corp Plantation, per cui ti dà subito la misura dello scenario nel quale era questo discorso, era pertinente quando è appena uscito, e forse magari stilisticamente, cioè, noi ancora, però, nel fondo siamo ancora in mezzo a questa storia. I guarantee you, no more music by the suckers. No more music by the suckers. No more music by the suckers. Yo, man, what do he mean by suckers, man? Yo, he only trying to put a black eye in the game. But yo, we gonna let you put a black eye in the game, boy. You know what I'm saying? Now we come to the payoff. Yeah, boy. Call Medina, call Medina. Rocking a beat to the strip. Yeah, boy, I got a solo, boy. That's right, Flavor going solo. What y'all know about that? Yo, we gon' kick the flavor like this. Yo, bust this out. I'm lampin', I'm cold lampin'. I got Louis, boy, I'm not trampin'. I just came from the crib, you know. I'm on the go, throw your tank into Metro. Live lyric from the bank of reality. I kick the flies, don't maneuver technicality. Do a dope track, you wanna hike, get your backpack. Get out the whack sack. I'm in my Flagmobile, cold lampin'. I took the DM State cold campin'. To the Poconos, we call the hideaways. A pack of friends and a big bag of Frito-Lay. Vanilla, chocolate, strawberry, sarsaparilla. Flavors are electric, trying to get a shocker. Did I tell you leave flavor, flavor alone, knocker? A clock on my chest, prove I don't pass. I'm a clocker rocker, rocking with the rest. Flavor in the house, but Chuck D size. Chuck got the flavor, Flav don't hide. P.E. crazy, crazy P.E. Make it crazy, Louis, for the shopping spree. You're eating dirt, cause you like getting dirt from the graveyard. You put gravy on it, then you pick your teeth with tombstone chips. Casket cover clips, dead women hips you do the pump with. Bones, number love bones. Lifestyles of living dead. First you live, then you're dead. Died trying to clock what I said. Now I got a murder rap, cause I bust a cap with flavor. Pure flavor. Public Enemy. Public Enemy. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, flavor way. In any year on any given day, with a brother know what do flavors say. Why do the record play that way? Prime time merrily in the day. Right now this radio station is busy, brain audibly whizzy. Honey dippers, you say you got, you ain't got no flavor, and I can prove it. Flavor, flavor, flavor of all flavors. Onion and garlic, french fried potatoes. Make your breath fake, breathe fire. Make any onion the best crier. I know it sounds crazy, but it fits perfect. Peter perfect, pimp the perfect Peter. Honey dripper, sucker sipper. Big dipper, sucker dripper. Dripping suckers till it's going out of style. Creating suckers for the flavor, flame pile. Flavor, flavor, the flavor of the pile. Limping boy Medina style. Kicking the flavor, getting busy. You're going now, I think you're dizzy. I think you're hungry cause you're starving for flavor. Flavor most, put it on your toast. Eat it and taste it and swallow it down. Imperial flavor gives you the crown of the King Crow flavor. The king of all flavors. Rows and rows and rows of life savers. Flavor flavors in everything you eat. Cause everything you eat got flavor. Flavor flavor's the first taste you get in the morning. Your breakfast is the flavor. In between that to lunch, in between that to dinner, in between that to midnight flavor. That's right, boy. E siamo ancora a This Is Not an Exit. Stavamo parlando di Louis Farrakhan e di tutta la loro simbologia, del loro modo di vestire. Beh, se li avete visti dal vivo, a parte Chuck D e Flavor Flav, che soprattutto quest'ultimo folleggiava sul palco, c'erano anche dei figuri, un po' più, come dire, inquietanti, vestiti in tuta paramilitare. S1W. Esempio, esatto. E sì. Security of the First World. S1W, Security of the First World, come le vediamo sempre, immagino Black Panther vestiti paramilitare, fanno delle specie di coreografie, fanno anche cori e sono guidati da solito dal misterioso Professor Griff. È già nel Minister of Information. È già nella retrocopertina di It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, infatti c'era questo S1W e poi c'era il logo, il loro famosissimo logo. Sì. Sì, sì, sì, il Black Panther nel mirino del fucile, della pistola, che è disegnato da Chuck D, che mi sa che era studente di arte, design, che, per cui l'elemento visivo, estetico, era molto importante fin dall'inizio. Anche nei loro video, che tra l'altro mi dicevi, esatto, fuori onda, furono anche spesso censurati da MTV. Quando canti Burn, Hollywood Burn, nel senso, sono abbastanza espliciti. Quel modello che dicevamo degli anni 80, del winner che si fa la coca e così, a loro non interessava. Interessava un discorso che parlava alla comunità, una comunità che non aveva voce. Perciò il detto di rap is the CNN of the black community, diceva Chuck D, nel senso, la black community non ha un canale, non ha mezzi di espressione di massa, allora il rap era diventato quello che magari il jazz era in una fase. E poi tutti l'onda lunga dei diritti civili ormai si è andata ad esaurire, cioè, già con la morte di Luther King e di Malcolm X negli anni 60. Esatto, esatto. Loro sono cresciuti con il lato più radicale del Civil Rights Movement, per cui sono cresciuti a sentire l'elezione di self-defense, di orgoglio nero, come diceva James Brown, anche questa musica di Marvin Gaye, di James Brown, che ha contenuto, che ha bellezza, e sono nati con questo pensiero tra i Black Panthers, tra Louis Farrakhan, e senti nel testi, le referenze, nel senso, loro volevano, si sentivano il bisogno di avere un profeta, un leader. Definiscono, ecco, the prophets of rage. Perché dicono, sì, abbiamo mille motivi per essere incazzati, perché la nostra storia è stata rapita con la schiavitù, è stata violentata, per cui dobbiamo ricostruire tutto questo processo. La Chiesa, l'America bianca non ci ha dato, non ci può raccontare la versione che cerchiamo noi, perché anche il discorso dell'identità è lì, è venuto con l'importanza di avere dei leader, in questo caso Louis Farrakhan, che gli dà una non solo una lettura del passato e del presente, ma l'importanza di costruire questo futuro, costruirlo proprio nel knowledge, il sapere, l'educazione, l'autonomia a livello economico, a livello di proteggere la comunità, per cui c'è questo lato tipo la Nation of Islam, S1W, Security for the First World, questi lato di coreografia di presenza paramilitare con il gruppo, paragonabile al Fruit of Islam, FOI, che sono il lato paramilitare della Nation of Islam nel quartiere di Chicago, di New York, di Los Angeles, eccetera, perché quando ci sono i gang, c'è la polizia che fa degli abusi o dei gang che tra di loro insomma spaccio eccetera, violenza, stiamo parlando di una società americana, attenzione, per nel senso che comunque le armi sono legali, per cui c'è molta molta violenza, molta povertà, e gente come questi erano un po' the prophets of rage, come dicono loro stessi, profeta della rabbia, e questo l'hanno disegnato quasi un fumettistico, no? Per renderlo accessibile, chiaro come discorso, un'estetica affascinante, cioè, appunto, come dicevamo, tu eri in Italia, ero in Marocco, e tutti abbiamo flashato sul sound, cioè, perché si parla di un sound come quello che era, adesso c'è un sottofondo Art Ensemble of Chicago, era quell'impatto per gli anni 80, insomma, fin anni 90. At the count of three, I want y'all to tell me the name of my DJ. One, two, three. Yo, I gotta hear that one more time, man. One, two, three. Yeah, boy, for all those that didn't understand, Terminator X. for the fact that my rhyme. No provoking, no joking, you know the stage is set. If you're thinking I'm breaking, he ain't rocking shit. My education is taking you for a long ride. I make your brain slip and do the ride into infinity, it's infinite. With your hand in your pockets, I know your money is spent. Like this, like that, butter for the fat. You kill my dog, I'ma slay your cat. Just like that, y'all. Can you handle it, son? I'm public enemy number one. Terminator. Oggi abbiamo Terminator X ai piatti, o quantomeno lo riproduciamo. Stiamo parlando di Public Enemy del periodo 88-89, insomma 87, i loro primi anni, la loro esplosione. Sì, perché i Public Enemy, ok, l'hip hop era già un fenomeno in grande esplosione. Grandmaster Flash, Run DMC erano già dei nomi molto conosciuti. I Beastie Boys stessi, che pur essendo bianchi, ebrei, tra l'altro, venivano da Brooklyn e facevano del gran bel hip hop, penso ci fosse tra l'altro molto rispetto tra le varie band. Eppure probabilmente questo disco in particolare diede la svolta, fece esplodere tutto, fu il primo disco suonato probabilmente, con pochi campioni, pochi stop. Andarono in studio con l'idea di registrare un disco praticamente come fosse un disco rock. Esatto. E questo cambiò parecchie cose. Altra cosa da sottolineare, non erano il classico gruppo di ragazzi, di disperati che venivano magari, come sarebbe successo poi per il gangster rap, dai ghetti suburbani, ma venivano da una famiglia della media borghesia nera di New York, venivano da Long Island, quindi non un quartiere ghetto, ma avevano comunque qualcosa da chiedere. Non gli bastava essere, come dire, benestanti, avevano comunque un background culturale che li spingeva altrove. Esatto, hanno avuto comunque un percorso di studi abbastanza privilegiato per il nero medio quegli anni, e questo avevano anche molto la passione della radio, che esatto, di loro hanno iniziato proprio nel radio del campus e a fare l'MC-ing, il DJ-ing. Facevano le gare di MC. Esatto. E è così che nasce l'avventura, che nasce quell'avventura di Chuck D, Professor Terminator X e altri, proprio con il primissimo single, Public Enemy Number One. Ovvio. 1984. Proprio back in the day. Gli esordi dell'hip hop vero e proprio. Esatto. Molto legato alla radio, la radio è elemento di avvicinanza, poi ovviamente come si vede anche community radio, come le chiamano negli US, negli Stati Uniti. Esatto, community radio. Poi la figura, non so, adesso è come referenza cinematografica, che sono stati molto vicina a Spike Lee, ovviamente con la colonna sonora che ha promosso moltissimo il film He Got Game, giusto? Ma anche Fight the Power, proprio. Ah, perché gli fece... No, gli fece il clip. Gli fece il clip, è vero. Gli fece vero, il clip, è vero. Sì. La figura di Reddy O'Brien, proprio, cioè, ci sono sempre queste figure ricorrenti del presentatore radio, piuttosto che il tipo col ghetto blaster nel quartiere che sta ascoltando la radio e il mixtape. È vero. Nascondi questa realtà. Thanks for your- quindi diciamo Public Enemy, nemico pubblico numero uno, però insomma è un po' da riallacciare il discorso anche ai padri fondatori un po' del genere, no? Ha una negritudine che veniva comunque dagli Stati Uniti sempre, che è quella dei Africa Bambaataa e Zulu Nation, e quella insomma che si parla della nazione Zulu, l'Africa appunto, lontana un po' dagli Stati Uniti ma sicuramente vicina col cuore e col pensiero a quello che era stato nei secoli passati e a quello che adesso si vive tuttora, insomma anni 80 però del XIX secolo, ma che comunque i Public Enemy ancora lo ricordano. Sicuramente non erano un gruppo jazz, anche se in sottofondo abbiamo qualcuno che magari gli ha ispirati tanto, il buon Sun Ra, qualcuno che si è inventato un concetto di futuro. Esatto, esatto. Considerandosi un alieno. Sì, praticamente sì, perché c'è paura dell'uomo nero. C'è sempre stata costruita questa paura dell'uomo nero, perciò questo uomo nero non ha mai avuto un'identità. A costruire la musica, l'arte ha permesso questo, nel caso di Sun Ra, di portare un messaggio dall'aldilà praticamente, dicendo che lui stesso veniva da un'altra pianeta. Beh, l'altro pianeta magari era semplicemente l'Africa, per lui era l'antico Egitto. Ovviamente si vede l'iconografia un po' di Sun Ra riferita alla cultura faraonica, che comunque è una delle più alte civiltà scientificamente, che viene che ha una porta illuminata, che viene dall'Africa, per cui l'immagine WASP di questa America industrializzata, imperializzata bianca, che faceva che il nero veniva è quello che vediamo nel film di Tarzan, non è valida. C'è veramente una cultura che ancestrale molto forte. Questo che magari quando vediamo un album come Fear of a Black Planet è un messaggio forte pure dei Public Enemy, nel senso più cresceva questa la fama ma anche un po' la paura di questo gruppo che è arrivato con dei lyrics subversivi, comunque dicevano cose importanti però erano inquietanti per le radio mainstream, anche MTV stessa eccetera, e più cresceva la paura di questa pianeta nera, no? Cioè di tutta questa cultura, e allora questo movimento afrofuturista, c'era qualcuno che portava una narrazione avanguardista, quello che succederà, come stanno le cose in fondo, e poi con l'aiuto dell'arte, nel senso anche il modo di vestirsi, il modo di presentarsi sul palco, il modo di usare il cinema, loro usavano molto videoclip, come Sun Ra ha fatto pure un film, Space is the Place, per costruire questo immaginario, perché appunto dove c'è una violenza, che è quella che abbiamo parlato, il risultato della schiavitù, non si aspetta un risarcimento, e neanche materiale, per il stesso motivo che diceva G. Scott Heron. Chi no, pagherà? Non voglio i soldi. Sì, è l'anima che è in. Per cui serve oltre, serve un immaginario, dei fatti che partano veramente dal nucleo, dalla comunità. E là si ritorna al discorso dell'auto-organizzazione, eccetera. E chissà se proprio non sia stato un caso che proprio in questi anni uscirono gli stickers, gli adesivi con scritto explicit lyrics, testi espliciti. E pochi anni dopo cambiarono le leggi sui campionamenti, sul copyright, che limitarono il fenomeno dell'hip hop in un certo modo alle major, a chi poteva pagare le royalties per questi, esatto, questi campioni. Eh sì, c'è da fare soldi, allora bisogna mettere delle regole, delle restrizioni, far lavorare l'industria, sapere che dare dei gusti, questo è buono, questo non è buono, questo può passare, questo non può passare. Questi gli argomenti che si possono essere trattati, sono pertinenti per il mercato, che di quello si parla, e altre che rimangano in questo caso ovviamente mi sto riferendo alle polemiche che sono legate al gruppo Public Enemy nel periodo dove Professor Griff inizia col suo carisma, le sue doti da produttore eccetera, riguardo temi è stato accusato di antisemitismo, è stata montata una campagna che ha proprio un po' rallentato, diciamo, la carriera di Public Enemy, o almeno ha avuto un ruolo nel suo nella sua carriera. Molto, molto più facile indirizzare Snoop Doggy Dogg, insomma, comunque gangster rappers, di essere delinquenti. Ovvio, lì il modello è quello del pimp, è quello che è stato promosso nella cultura del black exploitation, per cui c'è, cioè, comunque, cioè, sì, soldi, prostitute, sì, droga, soldi facili, esatto, divertimento. Esatto, perciò non... rimani un schiavo di casa, non sei più lo schiavo del campo, come diceva Malcolm X, sempre per tornare a referenze serie, ma diventi, ok, sei bravo, sai cantare, sai ballare, sai saltellare, allora fai il negro di casa, però sei sempre un negro, malgrado i tuoi soldi, le tue cose. Un gruppo del genere ha portato questo messaggio, che l'importanza, il rispetto dell'identità, da dove viene, e di lottare per i tuoi diritti, perché nessuno, fight the power, nessuno ti darà i tuoi diritti, non ti regalerà nessuno, e devi prendere. Somebody in the house say yeah. Yeah. If y'all really like to rock the funky beats, somebody in the house say hell yeah. Yeah. I like that for the people up top. Check this out. Yo, I can't believe they got the PE in court before the judge on some nonsense. I got the S1s ready. Chuck Flame, what's up? Yeah, get court, now in court, cause I stole a beat. This is a sampling sport, but I'm giving it a new name. What you hear is my PE, you know the time. Now what in the heaven does a jury know about hell if I took it? But they just look at me like, hey, I'm on a mission. Check it out, y'all, conditions ain't right. Sitting like dynamite, going to blow you up and it just might blow up the bench and judge the courtroom. Plus, I gotta mention, this court is dismissed when I grab the mic, yo, Flay. What is this? What y'all think y'all doing bringing us to court for this guy and saying we stealing beats? Y'all can't copyright no beats, man. Your judges ain't crazy, man. Get hype. Come on, we gotcha. Gather around, gotcha. Mail from the courts in jail claims I stole the beats that I rail. Look at how I'm living like, if they're gonna check the mic right side. Come on, cause I'm living low, lower than low. What a sucker know. Found this mineral that I call a beat, paid zero. Pack the low cause it's better than gold. People don't ask the price cause it's sold. They say that I sample, but they should sample this, my pit bull. We ain't going for this, they say that I stole this. Can I get a witness? Understand where we're going. Then listen to this plus my rolling. Coming from down from below me bound. Come on, boost up the stereo. Snakes in the morning, wake up scared, afraid of my warning. They claim that I'm violent, now I choose to be silent. Can I get a witness? Yo, Griff, move the S1s out on the judge and the jury, hold them hostage. Time for Terminator X to step in and show him that he's in effect, boy. Playing this on the radio, most of you will demand this. Won't be on the playlist, plus the way that I say this, no sellout. Yeah. Hey, yeah, fellas, you think we're gonna sell out? Nah, man. I said, do you think we're gonna sell out? No, just cause we ain't caught. Yo, Play, you think we're gonna sell out? I know if we do, we get the hell out. Uh huh. Yo, Griff, you and the S1s, do you think we're gonna sell out? No, not this day and time, yeah, my brother. Uh huh. Terminator X. As you sing your sense of songs to the mindless, your general subject love is minimal. It's sex for profit. Scream that I sample. Example time, you ran to the federal court in the US, it don't mean you. Yeah, cause they fronted on you. The posse's ready. Terminator X, yes, he's ready. The S1W script, are you ready? Sempre This Is Not an Exit. Ormai siamo al termine, però sono anche curioso di sentire Darida di raccontarci un po' il documentario che ha fatto. Sì, il documento che abbiamo fatto, perché ovviamente non si fanno le cose da solo, diciamo ideazzato e realizzato poi con il concorso di varie persone che adesso non posso enumerare tutti, però diciamo che i più attivi sono comunque un nucleo a Bologna, una casa di produzione Andervilla, il mio amico Gatto Davide, e che ha lavorato con me sul montaggio, la post-produzione, e tantissimi musicisti bravissimi, come si sa che abbiamo, no? Qui Bologna in zona, tantissima buona musica, guidati da Fabrizio Pulisi, che è pianista-compositore, per la colonna sonora che è stata scritta insieme al documentario. Il documentario è la storia di Tony King e che è Malik Farah Khan, e che è proprio il Chief Security, una specie di bodyguard di Chuck D, leader dei Public Enemy. Come dicevo, ho incontrato fine 2008 per caso, poi un annetto dopo è venuta l'idea di fare, visto che era una storia che non mi sembrava molto pertinente appunto come immagine di metamorfosi della cultura afroamericana del tempo dei Civil Rights Movement fino al tempo di un presidente nero. Mi sembrava un filo conduttore interessante che percorre i temi dello sport, perché Tony King insieme al fratello Charlie King furono nel 1965 al 67 i primi giocatori black a giocare professionista nella Liga del NFL, National Football League, con i Buffalo Bills, e questo proprio è un riconoscimento storico in sé. Poi ha avuto un percorso diverso per appunto motivi di razzismo eccetera, a fare l'attore modello a New York, lo possiamo vedere in vari film tipo Shaft per gli appassionati del genere black exploitation, o addirittura tipo al Padrino, che fa il ruolo praticamente dell'unico black man, che è la scena del cavallo, e tanti altri film del genere. Si affascina ovviamente di Malcolm X e discorsi di Farrakhan, come tante giovani all'epoca, e decise di fare un cambiamento spirituale di nome, di religione, diventa membro della Nation of Islam e si chiama Malik Farah Khan. E Louis Farah Khan, proprio penso anche al quale accennavamo prima, il leader della Nation of Islam, gli dà come missione di badare alla sicurezza di personale di Chuck D. Questo per dire com'era un pochino l'ambiance. Incredibile. E l'ambiance. Sì, una storia incredibile. Questo è incredibile, ma sono tipo 4 anni, adesso siamo arrivati alla fine. A partire di settembre ci saranno un sacco di belle sorprese. E sì, partita da Bologna, ha fatto un po' il giro, qualche 4-5 città in Stati Uniti, e adesso siamo al termine. C'è un sito, si chiama thelongroadproject.com, cioè pagina Facebook, Twitter eccetera, per avere un po' più di elementi sulla cosa. E tengo a ringraziare appunto tutta la crew che ha lavorato, adesso non ce la faccio a nominare tutto, però tanti ragazzi che hanno aiutato, perché abbiamo fatto anche una specie di produzione dal basso, abbiamo fatto anche un sistema di crowdfunding per aiutare un pochino alla fine del processo, che è stato un processo proprio dal base, non c'è stato una produzione oltre alle nostre capacità. Ma Chuck D sarebbe d'accordo? Sì, c'è l'onore, vabbè, questa cosa in esclusività, però comunque sì, ha sostenuto il progetto nella maniera che sa fare. Ci ha fatto un pezzo, per cui abbiamo la colonna sonora, abbiamo il soundtrack interamente inedito, scritto da Fabrizio Pulisi e tutti i musicisti che poi... sono tutti amici con progetti paralleli, adesso non sto a citare, e c'è il pezzo di Chuck D che ha scritto proprio Kings per il film, per cui la colonna sonora sarà disponibile poi a partire di settembre. Ci sono aggiornamenti sul sito, come dicevo, thelongroadproject.com. Ok Reda, ti ringraziamo tantissimo, questa è la fine di anche questa puntata di This Is Not An Exit. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 16, su queste frequenze di Radio Città del Capo. Buon ascolto a tutti, salutiamo tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Buon ascolto con Radio Città del Capo. Yeah. boy. Pump up the volume. Pump up the volume.